La mia opinione è che questa età deve essere equiparata. Ci sono ragioni di equilibrio attuariale, ci sono ragioni di equità sociale che spingono decisamente per l'equiparazione. Naturalmente il problema presenta anche aspetti che vanno valutati con maggior approfondimento, per esempio il fatto che le donne si prendono cura dei figli da allevare molto più degli uomini e che si prendono cura dei vecchi da assistere molto più degli uomini, e quindi questi sono elementi di cui tener conto, però in linea generale io sono favorevole. La verità è che una donna di 60 anni si può aspettare di vivere ulteriori 26 anni. Allora ammettiamo che questa donna abbia cominciato a lavorare nel pubblico impiego a 20 anni e non abbia mai smesso, quindi ha lavorato da 20 a 60, 40 anni, e poi 26 se ne ritrova di durata media di vita. Allora, i primi 20 anni per quanto riguarda istruzione e salute l'ha vissuto a carico della collettività. I 26 anni di pensione, di vita ulteriore, quindi di pensione, li vive a carico della collettività per quanto riguarda salute e per l'appunto pensione. Allora, 20 anni. Professore, quindi la sostanza è che ci mancano 6 anni. Ci mancano. Allora, come può reggere un sistema, qualunque sia l'ingegneria, i marchi ingegni di ingegneria previdenziale, come può reggere un sistema in cui si pagano contributi per 40 anni e si ricevono prestazioni per 46? Quindi non si regge. Questo dal punto di vista dell'equilibrio attuariale. Dal punto di vista dell'equilibrio sociale c'è da considerare che arrivare a 65 anni, fortunatamente oggi è il 93% delle donne, e quindi perché fortunatamente è stata praticamente sconfitta del tutto la mortalità precoce. Allora 93% delle donne che arrivano a 65 e poi vivono ulteriori 22 anni, significa che gli anni che globalmente vivono le donne superano quelle degli uomini del 30%, e quindi c'è una questione di equità sociale.